punto minimo stai uscendo con 60-70 watt modulati, con la portante dopo 10, fai 10-15 watt di portante, ma se tu poni la portante a 9, sei già a 40 watt di portante, quindi la modulazione se ne va, perché sta andando oltre i 50 watt, quindi oltre i 60, oltre i 70, non a guardare quella scala. Vabbè, va. Non vedo di segnale, però guarda, ce l'ha risolto io, e perciò salendo adesso a poco più di 10, sale a 40 watt, quasi 50, non c'è niente a quello che segnali 40-50, ma secondo la mia prova è qua, 42-50, sì, molto più alto, molto più alto, quindi va bene così, 10-15 watt di portante, poi quando parla lui se ne va a 40-50 watt, anche 60, è ottima come modulazione, non te la smorza molto, capito? Tu ti ricordo che io ho, allora, di portante io ho 10 watt, e sto modulando con 40, quindi va benissimo. Ecco qua, aiuto. Vabbè, con questo va bene. Devo toccare, cioè, lo... Era sempre... Grazie, si dagli occhi. Era sempre così, là. Aspetta. Qua va a provarlo, questo pezzo di baracchino. Ok. Vabbè, dai. Ascolta, stavo pensando di attaccare il mio rosmetro, quello là, invece un tubo per vedere un po'. Attaccalo, non c'è problema. Attaccalo, però vai diretto senza commutazione all'antenna, Vai diretto. Antenna sul rosmetro, prospetto. È più conciliabile con quel tipo di radio. Ma non sono uscito. Sì, io già sono. Vai. No, stavo ascoltando, anche io non uso più di 15, sempre così, mai, raramente ho fatto via un colpettino ieri l'altra a Luca per vedere quanto arrivavo sollevando, ma è inutile salire troppo perché poi va negativo pure, se dai piena potenza va negativo. Allora, due secondi. Scala 50, 110 watt sta dando. Guarda giù tu, io. Guarda giù tu, ma niente gioco. Allora, aspetta. No, aspetta, ho sbagliato io qua. 50. Sì, 110 watt. Io per tantissimo tempo con la portante, come ce l'hai, se tu sollevi la portante te ne accorgi e quindi ti smorza la modulazione, te la porta un po' via, e così ne avessi, come ti ho detto io, come ti stai dicendo Roberto, come la usa Mario, a Mario gli ho tarato così e lui non lo tocca mai, quando scalda quella radio fa un lavoro eccezionale, quindi è inutile stare alta e abbassa la potenza, capito? Lasci stare così come ce l'hai adesso, e lui va a modulare intorno a quei watt che ti ho detto, li supera i 50, perché li supera di brutto modulati, capito? Quindi ho contro senso dargliene di più di importante, perché tanto il modulato sul parlato, io ti ho detto, ho 10 watt importanti, modulati sono 40, ci metto la portante a 50, ma ne vado a modulare a 100, e già vai troppo alto, perché la radio guarda di più, la sforzi troppo, capito? Sono radio modificate per la M, quelle, non conviene mai tenere potenze così elevate. Ci va fatti allora. E cazzo. Sono imballato sul coso. No, aspetta, siamo a 50. 150 volte, poi va a scendere negativo. E poi va a 100, poi 110, 100 watt. Vedete, ed è negativo, quindi lo strumento è fallito. È aumentato tutta la potenza. No, è minimo minimo, è proprio minimo minimo. Guardate un attimo, c'è qualcuno che stava mettendo il portante, chi è avanti? Guarda Luca, non lo passa nessuno, quindi la portante è dalla zona tua. Allora, era un basso, ho sentito quando stavate parlando voi, chi è avanti? Ma io a Luca ancora non ho sentito niente. Tu Mario, hai sentito qualcosa? Tutto tace qui, sentivo a Luca, niente, e nessun altro. Infatti è un basso, c'è solo legge della zona tua, non va? Vabbè, dai, proseguite, dai. Ma voglio prendere un file dove è in modo da lui, no? E niente, si incazza. Ti sposti però non per la palla, vengono a rompere ugualmente, quindi tanto vale. Sempre come dico io, lasciare la radio spenta. Comunque Lu, sì sì, è fattibile, è fattibile. Va bene così. Allora aspetta, sta un attimino. Ma vaffanculo. Chi è che sta andando a parlare avanti? Ok. Ma che tu sei? Uno e tre stazionare sono, ok. Nuovamente 1, 2, 3 andando su. No, non ti sto seguendo. Spiegamelo tu, Claudio, che non ho capito cosa vuole dire. Se c'è 30 canali memorizzabili, come ti vuoi prendere 40? Tu lo sai che avrai memorizzato il canale 40. Ma l'ho preso già così, me l'ha memorizzato Claudio il canale. Io arrivo fino al 30, poi metto i due zeri e c'ho il 40. E dopo c'è l'uno e via dicendo. Quello che ti sto dicendo io, tu c'hai, con la radio c'ha 31 canali memorizzabili, 30 più lo 0, 31, tu dal canale 00 ti metti il 40, ti memorizzi il canale 40, però se vuoi andare sul canale 31 tu non ci puoi andare come si chiama, canalizzato. È quello che ti stavo dicendo, mentre col 44 c'hai 99 canali memorizzabili più lo 0, 100 canali c'è. Positivo, buonasera. Ma vuoi entrare? Hai qualche problema? Cioè cosa? Non capisco. Tu ci metti un occhio, tic tic tic tic. Sì, roba è così. Tutti i 140 che ho io. La numero 30, anziché poi mettere lo 031, io metto sempre il canale 40 o il canale 41, così per comodità, capito? Tutti, anche quello che c'ha Luca è così, uguale. Anche quello che ha Luca, tutti quelli che ho dato io, i 140 io li ho già memorizzati, nell'1 al 30 e nel 00 metto il canale 40, poi se qualcuno vuole cambiare se lo cambia. No, ci mancherebbe, no, mi sono come la vita, perché così ho dato 140 che c'ha più di 30 memori, ho detto, ma oggi andate attraverso, perché quelli che conosco io ne hanno solo 30. Sì, 30 memori. Andava bene, dai, non c'è problema. L'unico, guarda, sai cosa non mi piace del 140? La regolata della potenza è talmente scomoda, basta un doppio appena tu ti sale troppo velocemente, mentre dal tuo punto di vista il 44 è superiore. E cosa? Lo slide del 14 per regolare la potenza è troppo sensibile, c'è una cosa troppo breve, mentre con il 44 c'era la cursore, la rotazione, non la cursore, la potenziometro, è più facile regolare la potenza. Il 140 e 80 hanno lo slider per un semplice motivo, che non c'è posto per i potenziometri, non è che non si poteva fare. Allora, vedi che ce ne sono due di potenziometri, che sono quello del adesso sono al buio, cos'è noce e il ritmo, mi pare, che sono i due centrali. Sul lato, lì c'è la scheda del coso e quindi non ci stavano, perché sono lunghi da dentro. E allora hanno messo lo slider, per comodità che l'hanno fatto, capite? Se no si poteva fare anche quello lì, altri due potenziometri a fianco a quelli che ci sono. Mentre il 440 ha tutta la parte davanti proprio della destra, dove ci sono i quattro potenziometri grandi, che è vuoto quel punto lì, capito? Perché c'è la colonnina e basta. Mentre invece da quella parte del 140 non si poteva fare, altrimenti l'avrebbero fatto. Comunque non ci la radio, no, non c'è niente da dirle. No, assolutamente non ho detto niente. Ho fatto solo un'osservazione che diciamo tu mi stai dicendo per quel motivo, infatti probabilmente era per quello, perché è troppo strano che mi hanno fatto un coso così scomodo da utilizzare. Comunque io sento sempre anche tu tu col pettino e non si sa chi è. Avanti Mario. Cappagappa, no, io mi trovo bene, senza nessun problema. Allora, mi trovo bene anche perché siamo molto pochi e ci spostiamo come vogliamo, non c'è problema da quell'altro lì. Poi quelli là io, una volta che erano già regolati, cosa li tocco a fare? La radio è l'ultima, tutti mi ascoltano anche se non voglio, niente. Pensa che l'altro giorno hanno chiuso i baracchini e li hanno riaccesi a Oristano, perché me l'ha detto Cosio Vulcano, che lui parlava con me e addirittura soprammodulavo a Gippone, che era il vice di Biruli, che stava facendo la consegna. Vulcano parlava con me e tra di loro i camionisti quasi quasi non si sentivano, allora hanno spento la radio, perché sentivano a me a Vulcano. Sì, sì, no, ma l'ho detto, c'è un'ultima posizione, forse c'è un'ultima, diciamo, non mi immaginavo che da quella posizione riuscissi ad andare così lontano, infatti mi è rimasto sorpreso anche io, probabilmente non lo so per quale motivo le onde riescono a propagarsi bene, non lo so, perché non è solo a farsi sentire, tu ascolti pure, è quello importante, inutile che io mi possa, come ho detto tante volte, sentire a Parigi, però non ascolto niente, tu c'è anche la ricezione, stranamente, considerando che non sei altissimo, per dire, rispetto a me sei molto più basso, però c'è un'ultima ricezione, invidiabile almeno. Invidiabile, no, io mi puoi chiedere a chiunque, puoi chiedere a Falchetto, perché anche Falchetto si fa sentire, fino a Macomero arriva anche lui, e parliamo sia con Gippone e sia con Vulcano, senza nessun problema. Certo, non è che li sentiamo Santiago 9, li sentiamo Santiago 5, Santiago 3, però li sentiamo. Guarda, io ho accompagnato Luigi quando l'ha parlato, forse 2-3 mesi fa, perché non stavo usando dei dati. Fino alla piana di Campera, tranquillamente da qua. Va molto bene. Vabbè, io guarda che quello che sto sentendo qua, va bene, le mie bande amatoriali, nessuno l'ho sentito. Le zone basse così in pianura hanno uno specchio molto molto più vasto rispetto alle zone alte, ma non che non sei proprio di fronte come Alghero, come queste cose così, allora arrivi bene, ma da qua giù io da quando ci sono non ho mai avuto problemi, ho sempre sentito tutti e tutti mi hanno sentito. Vabbè, io uso potenze molto elevate, però non me ne fotte niente, l'importante è farsi sentire. E la portata che tu senti è lì vicino a te, mi dirò, beh, fai uno più uno e fa due meno, cioè non è che ci siano molti discorsi da fare. Sì, mi immaginavo, infatti, per sopramodulare più forte di voi, deve essere qua proprio attaccato. Dai. Comunque continuiamo, non è successo niente, vediamo se Luca è rientrato nel frattempo. Ci sei Luca? Riso, qua c'è una cosa qua, il computer, c'ho un leggero mal di testa. Sono leggero mal di testa, ma se mangio sono una fastidia. Sono qua che ascolto, tranquilli. E anche io non è che mi sento tanto bene, ho preso una medicina per il raffreddore e ho preso Gappizzi. Ne sono passata la settimana scorsa, metto la Gavini Ucci. Il problema è che rovino che prende il bullo abbortante. Certo. E in ragione Roberto, io uno più uno fa due, no? A me è poco meno a frutti. Anzi, faccio una cosa, me la vado a cenare, se ci siete ci sentiamo dopo. Diversamente ci sentiremo la prossima volta. Comunque lui, lascia stare tutto così, non toccare niente. Vai alla grande. Ok. Ciao Roberto, ciao Mario, ciao Luca. Ci sentiamo dopo se ci siete, eh. Ok, lui, tanto io sono lì al computer. Al limite, se ce l'hai acceso ti mando un messaggio e mi sposto qua, ok? Ma non c'è problema, io sono qua anch'io, tanto l'altro vado a mangiare. Ciao Grigliano, che non metto problema. Tanto sono le anche 20 circa. Ok, raba, come la c'era qua? Qua è Mario. Appa, buona carica qua, ce la presentiamo alle prossime. Riprenderò bene. Ehi, buona carica, se coincide dopo. Se ci siamo anche io sto aspettando che mi chiamino per andare a mandigare. Ok Luca, tornando a lui. E mi ha preso una capsula di microfono, di telefono, di che telefono? Perché uno di quelli ce l'ho io, cacchio. Ma quelli che direttamente senza metterci i condensatori, niente? Una diretta, allora. Quello Sirio, il Sirio bianco, quello lì sta dicendo. Scappa. Ecco, la volevo fare la prova, perché c'ho quel barattino nuovo che ho preso, è stato nelle base di Colino, però, per portarmelo giù al mare, per non stare con gli alimentatori e rompimenti di scatole, è anche comodo da utilizzare quello lì. E come si chiama? Volevo portare giù solo per mettere un po' cupa come radio, magari se riesco a farlo sentire un po' più chiaro. Vabbè. Non c'è problemi, la portiamo, te la faccio io, non ne ho tutta la legata io. L'unica è quella, l'ho messo là dal mio, non so che fine ha fatto il microfono, boh. E com'è che fine l'ha fatto? Però cosa ce l'ho, uno di questi io mezzo rovinato ce l'ho, almeno la cornetta e pare che vi sia, se no pazienza, dai, ne cerco qualche altra. Quello che mi hai detto tu funziona anche una bomba, ma è quella da 48, però ho le connessioni per la 48, non per quello che ha sei puri. Quella lì so bene, quella, io ho messo quella e ma veramente è bene. Aspetta un attimo, la passo qua. Ma io mi sono bene. E sto pensando, che cacchio ho dato il microfono io? Uno me l'ha dato a me, non so che cosa. Ma uno arrivo io, che non mi ha aiutato. Ah, pensavo di cosa. Avanti Maria. Come ne... Come mi ascolti con questa radio, Robè? Non ti ascolto bene, questo cos'è? Questo qui è 707, dove hai Aisio. Aspetta che ti do tutti i controlli necessari, prova qua a parlare. Guarda, 1, 2, 3, e prima fa il caffè e noi ce lo vediamo. No, anche questo non scherzo, una bella radio, leggermente più bassa dell'altro, però anche questa mi piace. Ma qua non c'è il processo inserito probabilmente. No, no, qui non c'è nulla inserito, questo qui è liscio, liscio, liscio, liscio, liscio, senza niente. Manco processore, nulla. No, no, bella radio, chiara, sembra che sei qua vicino a me, molto naturale come radio, bellissima, niente da dire. Gappa, mi fa piacere. No, io... Le accendo, abbasso il volume per l'unica scala e poi cambio con la commutazione dell'antenna e ogni tanto le faccio chiacchierare un po' tutte, là. Giusto, io adesso devo far camminare il Royce che è un po' confermo, non vorrei che quello si prendesse qualche malattia. K di positivo, no, vanno tutte bene, mi c'è solamente il 7D che... Lo devo far pulire le schede con la triellina, col pennellino, rinfilarle e anche lui va in trasmissione. Quello lì c'è una buona ricezione lo stesso, però in trasmissione non va e vogliono pulire le schede. Allora, e poi tutto normale. Tu c'avevi anche l'Argus, mi pare, no? Ma ancora ce l'hai? Certo, c'ho l'Argus. Il Milo, la prestazione base e poi c'è tutti gli apparati di macchina, ce ne sono 3, 3, 6, 7, 8, quello che c'è da Pompoi e poi ci sono i vari portatili, ha più canali, ha un canale e così via. Quindi c'è un bello assortimento, dai. Va bene, dai, già sono carini i tenenti. Avanti Luca. E vabbè, tieni presente che questo qui non c'è nel processore né niente, è liscio, liscio, liscio, liscio, e anche con molti, non pochi, ma molti meno watt di potenza. Ma va bene anche questo qua, Mario, quello che hai, la fa il tuo baracchino da base, mi sembra, il Saturnecco, il Baribu, o c'è bene lo stesso, io non c'ho spazio, sono baracchino. Anche questo un'area all'angolino, non c'è spazio qua. Lo spazio me lo prende il microfono e l'apparecchio. E lui qua l'ha portato in terra. C'è spazio, se lo organizzo bene, faccio un buon angoletto qua. No, io sotto c'ho 1, 2, 3 alimentatori. Poi nel piano di sopra c'è un alimentatore piccolino da 5 ampere. Portatili. Poi allo stesso piano c'è il getto, e a fianco c'è il computer, sotto c'è la tastiera, sotto il piano di lavoro, poi sopra c'è il monitor col mouse, e niente, intanto il più che uso io il mouse per giocare qualche volta o per vedere qualche cosa. Poi al primo piano diciamo che c'ho l'FT è il 14, poi all'altro piano ancora c'ho 4 microfoni e il Galaxy e dietro ci sono le accordature con l'osmetro e due portatili sempre di 15 B. Poi all'altro piano ancora ci sono tutti i baracchini di macchina, con un poco di portatili, mi pare sono 7 8, boh, una cosa del genere. Poi nell'ultimo piano c'ho il Milan da un lato, dall'altro c'è il posto del coso, dell'Argus, e poi ci sono due portatili UHF, che sono messi lì, però non sono né attaccati né niente, sono solo appoggiati. La sanitaria cosa c'hai? Cosa? Il primo piano, il secondo piano, il terzo piano, se l'internato cosa vai? La cantina? È una volta che ti insegna, no, è un mobile, ho preso, mettere tutti gli apparati, però mio figlio mi ha detto che non va bene così, che nel primo piano, diciamo così, vuole mettere tutta una famiglia, vuole pigliare il 440 e il 680 mio figlio. E mi sta fantasiando. Te ne vai, o ti prendi 440 o se non fatto, te ne vai lunga, cosa te ne fai? Sì, per avere tutta una famiglia della stessa linea. Ah, ragazzi, io sinceramente se devi fare il salto dal 140 prendi il 440, ma non piglio mica un 680, tanto da di no. Poi se non ti basta il 440 ci sono altre cose, ma 440 è eccezionale, va benissimo, niente da dire, c'ha qualche cosina in più come funzioni e più c'è una ricezione completamente superiore al 140, cioè c'è un abisso di ricezione perché è molto rumoroso il 140. Io li ho provati a confronto tutti e due vicini, non per vantare con le cose mie, però il 440 è molto ma molto superiore come ricezione e come rumore, soprattutto di sottofondo, c'ha dei filtri che ti attenuano molto i disturbi. È una conversione, Robert, 440, 140 e due conversioni, chiaro che la vera differenza. Sì, infatti, qualcosa che sto dicendo, ma tra un 140 e un 680 siamo in chibi, cosa va? C'hai 10 metri in più quello, non è così? 50 mega in più, cioè, ma c'è anche il amplificatore d'antenna, cosa che non c'ha il 440 ad esempio, vedi, 70 c'è il amplificatore d'antenna e l'attenuatore d'antenna. È un 3 conversione perché c'ha due schede aggiuntive, quindi si allontana molto da 140, non lo guardare perché è piccolo, c'è 80, vai che ce l'ho e viaggia alla grande. No, vabbè, ma a livello di ricezione dice migliore 180 rispetto al 140. Sì, un pelino in più sì, è più selettivo avendo anche una banda in più, è più selettivo, fai bene Mario se te li fai tutti. Io figurati che c'ho il 430, il 440, Mario. Tutti con la T250 e col PS50 la colonnina, quindi alimentatori ZGI, switching, bim, bomba, non ne ho, ho tutti alimentatori PS50, poi 140, Naviu 3, allora Naviu 2 e poi vabbè tutte le altre radio, però è bello averle tutte in fila, tutte la stessa casa, e guardi che vengo io e chi mi dà la bottiglia la fila, perché si potrebbe fare, quando tu fai a coppi i due OFT e poi ci metti in mezzo, anzi ci puoi mettere 140, ai due lati ci metti l'FT, i due FT, già è una cosa bellissima, perché io ti faccio una foto, ce li avevo, sono molto belli a fianco, e poi tutti gli altri baracchini con i baracchini, gli HF con gli HF. Infatti io sto facendo proprio così. Questo qui è un mobile alto 2 metri e ho messo i piani alle altezze giuste e poi ho messo tutti quanti gli apparati in ordine. Ho visto che c'è dal posto il coso, va benissimo. Poi non ce n'è problema, no? C'è un ripiano che è tutto pieno di apparati di macchina. C'è un'altra portante, la sentite? Ah, vedi che ci sarà pure il luce portante. Tanto non mi fa niente, non disturba né a te né a Mario. Non è pronto per quello che ho preso il microfono. Sì, sì, Mario, non già me ne ricordo, sono venuto a casa tua, già l'ho visto. Io se avessi possibilità, avrei qualcosa di più ricezione 940. Per fare Per il momento ancora non posso fare niente, però avere qualcosa di più di ricezione. Ah, ho capito. Chi è che mi ha chiamato? Ho sentito Ciao Spalletti. Non ho capito chi è. Sono io, Spalletti, non sei altro, vai, vai. Non ci voglio più il telefono, sì. Mo, buonasera a tutti, buonasera. Cosa sei rientrato? Ieri sono entrato, ieri sera. Ho fatto la scena, già mai chiamatoci a prenderci un caffè, adesso mai si è traditi. Ha sentito sparire, ha detto, ma loro mi hanno abbozzato. E poi della monolazione, sì, inconfondibile. Tutto bene, esiste, io mi ero un po' assente dalla radio, tra ieri e oggi praticamente ho ripreso, mi stavo facendo le prove con Luca, se no sto più al computer che alla radio. A qualcuno fa piacere, ma comunque, non me la fotti nulla. Tutto bene, se sì. Ehi Roger, sì, tutto bene, grazie. Io scusami che sono entrato così un po' brutalmente, ma saluto cordialmente tutti quanti, non so chi c'è in ruota perché è acceso così, non si sono sentito, ho voluto salutare così. Adesso vado a farvi carica, magari ci sentiamo dopo, Che la parte mi fa piacere, io sono qua, intanto anch'io mi vedo il tavolo che ancora non c'è niente, appena vedo il tavolo che c'è la roba sopra, lo rilascio. Vai Mario, era Stefano, te lo ricordi a Stefano Principe. Ehi AK, già l'ho riconosciuto come aperto bocca. Ciao Principe, la conosci questa radio? Questa qui è 707. Roger che la conosco, Roger. Bene, io sto provando una radio, non lo so come sto uscendo. Aspetta, l'ho detto subito, benissimo, segnale qua 9.30 rispetto a quello che avevi prima, perché io ho cambiato casa e sono qua nella parte bassa del monte, quindi alla fine via Pascoli mi arrivi fortissimo. Vai benissimo, Ste, non ci sono problemi. RR, no, c'ho le 680, non ho collegato le 2060 perché devo fargli quella modifica per le radiofrequenze. Comunque, vabbè, se sto facendo bene va bene. Ah, ottimo. Come lo senti tu a Stefano o Robert? No, la radio è bellissima, infatti detto questo è un suono inconfondibile di radio, bella radio, complimenti, segnale qua anche qua 9.30. Grazie Robe, anche tu, 9.25 Radio 5. Bravi, c'è anche Luca, chiediamo conferma a Luca, avanti Luca. Un attimo che sto facendo una piccola manovra, ma al computer, un attimo, sono in tripa. E poi scende il volto. Scusa Stefano, che zona sei tu per curiosità? Zona motorizzazione. Ah, Puglia, quindi stai andando alla bomboletta, dai, niente da dire. Ottima radio, ottimo segnale. Riprendi tra Claudio. Sì, anche qua arriva molto molto forte Stefano. Siamo praticamente molto più vicini rispetto a prima. Sì. No, Stefano, non tocca nulla, lascia stare. Vai magnificamente bene, io stavo sempre con quella vecchia Pantera del 440, ogni tanto inverto, o 140, 440, 430, insomma, come Mario li facciamo andare un po' tutti, no? Questo è quello che viaggia più di tutti perché lo uso molto in 10 metri. Ok, te vai pure a cenare, intanto anch'io, un altro passaggio e poi vado anch'io. Nel frattempo facciamo riprendere a Mario e poi ci sentiremo qua. Siamo tutti qua, vai Mario. E KK, no, io l'ascolto bene, solo che come segnale questo qui non ne ha, sono dei LED, vabbè, ce ne sono 5 verdi, 3 gialli e 2 rossi, però li accende tutti lui. Vabbè, lavoravo bene il prima. Eccomi qua di nuovo. Guarda, io non uso l'apparecchio con come si chiama? Con i LED, lo uso, veramente. Certo, lui se tocchi quella radio da come adesso ti distruggo, cazzo. C'hai una modulazione che è una bomba. Lascia la potenza così perché è veramente squillante, no Robe? Sì, va benissimo. Mario, prova a fare un passaggio fiscale, mi sembra che sei picchi negativi tu. Non lo so. Ma ah, cosa dici? Per me sono negativo. Sì, sono sistema negativo. Certo, caro. Se stavo arrivando 9,50 più di 60, cosa hai fatto? Benissimo, io, non voglio, non voglio. Ma ce n'è, meccanto, mettiamo molto bene, sì, va benissimo, ma vanno bene queste radioline, ci possiamo svegliare. Oh, Anna mi sta facendo di mano, quindi io vado a cenare, se vi fa piacere sono qua, e se non fate come volete. Ciao Mario, ciao Luca, Robby e anche a Stefano, se ancora è qui. Ci sentiamo tra un pochino, va, torno qua. Buona carica a Roberto che è andato via prima e buona carica anche a te qua. Ci sentiamo più tardi là, dopo la carichetta. Ciao Luca, anche io vado a caricare là, ci sentiamo tutti qui dopo la carica. Ah ok, dai Mario, ciao Mario, ciao io, Roberto e ciao Carlo, buona carica, ci sentiamo dopo qua in questo canale, bussate e noi siamo qua, ma guarda che mangiare già pronto. Cappa di Rosmetro, ci sentiamo dopo, d'accordo, ciao a tutti, X per me. Eccomi qua, siete? Eccomi qua. C'è qualcuno su 30? Ci siete? Caramella, tutta la gara. Sono di terra bene, insomma. tessero. E io a quello di mamma. Ci picchia. Facciamo la salata. Già esce. Non lo esce più. Sentiamo un piatto urgente. Sentiamo di cocca. Allora, ti muovo subito. Cocca, prima di scoraggiare. Non avevo giù la cocca ancora in frigo. Nessun cocca ancora, prima di la bugiugava non più. Sì, cosa devo andare a diarrea? No, accusimi infatti. Ah, giovinato. Ti agita, non posso bere. Così è. Io non lo sono le donne, basta. Ah, ci voleva. Ma sono un ghiaccio lì, un buio. Cosa? Io sono gay. Cosa c'entra? Io ho detto, amo solo le donne io. E tu? Cioè, ti dice un ghiaccio, un buio. Non si è capito un cazzo. Ho detto che io sono gay con il tuo culo. Un attimo che c'è il Capri 2. Avanti Capri 2, buonasera Gianni, ben entrato. Yeah. l'antenna, per il cavo tutto attorcigliato, per tante cose. Perché le cose bisogna farle come devono essere fatte già. Ho preso, guanti. Ma come li piace? Se non l'avevo avuto, cosa abbiamo fatto? Non puoi lavorare, no, perché se passa un ingegnere della sicurezza sono cavoliacci. Capisci? Arriva sempre, specialmente quando eravamo in mezzo alla strada per vedere se ci avevamo i segnali, tutto quanto. E veniva sempre, specialmente quando eravamo via Milano, lì era pericoloso, e controllava tutto, e si segnava di nome, tutto un altro. Radio che c'ho adesso, ascolto benissimo, non c'è problema. andare un tantino la basso qua. Beh, vabbè, purtroppo hai la terra più piccola, diciamo. Diciamo un buon lavoro lo stesso. E purtroppo, come sentite, sono l'ultima antenna, vuol dire tanto, vuol dire tanto. Se non c'è un'antenna, io ho un apparecchio da 5.000 euro, una nuova antenna, non ne fa nulla. Ma c'è un'antenna, vuol dire tanto. Anche l'apparecchio, ma l'antenna vuol dire tanto, tanto, tanto. Yeah. sono. Uno è un po' così e non posso, diciamo, fare più di tanto, ecco. Non mi fido, perché se mi cade l'antenna, già è così, lo stesso, devo adesso la mia giornata, salgo e mi verifico come si chiama, lo stato, perché non sono l'acquale, sono autocostruite, sono più di ruggine e non vorrei che magari se parte una, addio, fa danno l'antenna, perché il palo è pesante. Meglio così, ma con vedrai se gli hai di scorta. Lei mi saluta, c'è un mal di schiena, mi giunto che c'è un mal di schiena stanotte. Dai, dai, buonanotte, dai, ci sentiamo domani. Cerco di sdraiarmi. E anzi, ti sentivo, anche io sono chiuso perché qua mi fa già, c'è il freddo, mi si conosce fare coperte, ma non fa il computer, niente, Gianni, ti saluto anche a te. Sentiamo domani, vedi un po' di organizzato questa antenna. Per me, guarda, prima della TV che ti ascolto bene, non c'è problema. Ma per gli altri magari è un po' un casotto. Ok Gianni, saluto Antonio, tanto mi sentite entrambi. Bene, ma anche un paracchio ti sentivo bene, non c'è problema, ma con questa è superiore, dai.